America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Oggi parliamo d'arte, soprattutto parliamo di una nuova mostra che si è inaugurata l'altra sera alla Gagosian Gallery. Gagosian, ve lo ricordo, è uno dei mercanti d'arte più importanti del mondo, forse il più importante del mondo, ed era una mostra fotografica. Perché ve ne parlo? Perché riguarda l'Italia e riguarda in particolare uno spicchio d'Italia, Roma, e dentro Roma Cinecittà. E quindi una mostra, devo dire, che ho trovato molto interessante, molto moody, insomma piena di emozioni, di luci, di solitudine. Allora abbiamo con noi ai microfoni di Radio 24 Pepi Marchetti Franchi, direttore della Gagosian Gallery a Roma, che con Gregory Crutzon, che è il fotografo che ha scattato queste fotografie, dicevo che con lui non solo l'ha aiutato, ma in qualche modo mi pare, Pepi, ci hai vissuto, ci avete avuto un'esperienza così un po' tutti insieme, voi del crew Gagosian a Roma. Roma, no? Sì, decisamente siamo stati la famiglia di Gregory a Roma durante la realizzazione di questo lavoro che, come dicevi, si è inaugurato l'altra sera con grande successo qui a New York, che poi porteremo a Roma a gennaio 2011. Allora, Gregory Crutzon è uno dei più importanti fotografi contemporanei americani e un personaggio che è riuscito a creare queste foto a colori nelle quali ricostruisce delle situazioni, delle immagini con straordinaria forza. Qui le foto sono in bianco e nero, ma quello che vorrei chiedere a Pepi è come nasce l'idea di fare una mostra, o meglio di cominciare a fare delle fotografie di questo genere, cioè come gli è venuto in mente a Gregory Crutzon di fare questo progetto? È una storia abbastanza particolare, anche perché Gregory non ha mai lavorato al di fuori degli Stati Uniti, è un artista già attivo da almeno una ventina d'anni nel campo fotografico dell'arte contemporanea, ma aveva sempre lavorato negli Stati Uniti. In occasione di un viaggio in Italia nel 2007, un suo carissimo amico Wes Anderson, il regista che di recente appunto aveva utilizzato gli studi di Cinecittà proprio per girare il suo ultimo film Life Aquatic, gli aveva assolutamente consigliato, come da non perdere, una visita agli studi di Cinecittà, che non sono poi effettivamente sull'itinerario turistico classico romano, sono anche un posto molto difficile al quale accedere. Gregory andò a fare una passeggiata dopo aver ottenuto insomma i permessi del caso, e rimase completamente sorpreso in particolare da una serie di set cinematografici costruiti da HBO qualche anno fa per il loro famoso serial sulla Roma antica, e che giacevano abbandonati in una parte degli studios. Ed è stata un po' per lui come una specie di rivelazione. Ha avuto subito il desiderio, nonostante appunto la visita non fosse poi non avesse quello scopo, ha avuto subito il desiderio di realizzare una serie di scatti, quindi una nuova serie fotografica utilizzando questi spazi. Ecco, come nasce un grande fotografo in America? Come diventa un grande artista fotografico? Perché c'è dietro un mercante come Gagosian che riesce a vendere bene le sue cose? Perché qual è la sua storia? Ma no, direi innanzitutto un grande fotografo nasce in maniera molto molto naturale e molto più banale, con grande talento. Quella è la prima cosa. Da Gagosian ci si arriva poi successivamente. Noi non abbiamo lanciato Gregory, non siamo stati la sua prima galleria. Gregory ha studiato a Yale, ha fatto un MFA, un Master of Fine Arts a Yale, che è una delle scuole, delle migliori scuole d'arte, in particolare di fotografia, dove tra l'altro adesso fa anche parte del corpo insegnante, ma fondamentalmente aveva una visione, aveva un linguaggio, diciamo l'idea di un linguaggio che ha poi sviluppato nel suo lavoro fotografico e che lo ha reso famoso, perché è un... Qual è questo linguaggio? È un linguaggio abbastanza diverso da questo nuovo ciclo di lavori. Il linguaggio per cui lui si è imposto alla, insomma, alla critica, è stato esposto in alcuni tra i musei più importanti del mondo ed è collezionato da diversi di questi musei. È un linguaggio molto nuovo, con un taglio cinematografico, ma la costruzione di spazi molto staged, in cui l'America della suburbia sale sul palcoscenico, diciamo, in un certo qual modo. Ma è un'America, come spesso appunto la suburbia americana, fatta anche di solitudine, di angoscia, di grandi spazi con luci radenti, per cui ecco, c'è stata appunto proprio una focalizzazione su un... Ecco, nelle sue foto ci sono sempre dei personaggi, ci sono delle situazioni e soprattutto sono foto a colori. Ecco, qui è una serie completamente diversa perché non c'è nessuno a parte una foto particolare e perché sono in bianco e nero. Perché? Sì, in effetti appunto questa nuova serie fotografica, che poi si chiama Sanctuary, non l'abbiamo ancora detto forse, è veramente un punto di partenza nuovo per l'artista. Si tratta di bianco e nero, che Gregory ha usato pochissimo nella sua carriera, e come dicevi giustamente, a parte per un'immagine, effettivamente sono le architetture, queste architetture che lui ha trovato a Cinecittà, abbandonate e molto spesso proprio cadenti, che rappresentano i personaggi delle sue fotografie. Ecco, non c'è il rischio che così, diciamo, che Crutzen sia un po' caduto nella rete, nel bug che colpisce molti grandi artisti, e cioè del Grand Tour europeo, il Grand Tour italiano, e dunque arriva e resta colpito da questo. Ci sono stati altri artisti, altri fotografi che hanno fatto cose simili o comunque che hanno dedicato qualcosa all'Italia. Mi viene in mente per esempio Jean-Jean Kidd. Ecco, c'è questo rischio? Ma credo proprio di no, e credo che sia particolarmente evidente vedendo le immagini. Sono quanto di più lontano dal cliché italiano si possa immaginare. Sono chiaramente delle immagini di un luogo europeo e sicuramente italiano e probabilmente anche romano, ma è un luogo sospeso tra spazio e tempo, un luogo che noi abbiamo difficoltà a definire, perché poi fondamentalmente è un luogo che non esiste, è la ricostruzione di un'idea, di un mondo che non c'è. E questa mostra la vedremo in Italia? Sì, la vedremo da fine gennaio 2011 alla Gagosian Gallery di Roma, via Francesco Crispi 16. Bene, grazie a Pepi Marchetti Franchi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Swan Lights, il nuovo album di Anthony and Johnson, uscirà oggi e dunque siamo in grado di farvi ascoltare, diciamo in anteprima, una delle canzoni più belle, Thank You for Your Love di Anthony and Johnson. Thank you for your love. When I was falling in the seizure of pain. Oh, thank you. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.